che posso avere. Dammi i miei sogni e sta gente che si ricrede. Dammi tutto quello che mi hai tolto malamente. Entrami nel cuore e puliscimi la mente. Dammi questa vita e pulite la fedina. Dammi tutto quello che vedo per cartolina. Dammi l'amore vero, dammi l'amico vero. Dammi mia mamma perché non c'è e io sclero. Dammi proprio tutto e non dargli un costo. Voglio questa verità al primo posto. Dammi questo paese pulito dagli infami. Rubano i soldi togliendoceli dalle mani. Dammi carattere, io voglio un miraggio. Ogni volta che riprovo poi perdo coraggio. Dammi la voglia, dammi un solo sogno. Lo so, chiedo troppo ma senza mi sento morto. Dammi sto mondo senza male. Dammi sta vita che sa amare. Dammi tutto, voglio tutto. Dammi il nuovo che il vecchio lo butto. Dammi sto mondo senza male. Dammi sta vita che sa amare. Dammi tutto, voglio tutto. Dammi il nuovo che il vecchio lo butto. Io che non so dividere il sogno dalla realtà, tra le due parti poi mi ritrovo un po' a metà. E non voglio più sapere di quanto stavo male. Il terzo dito lo alzo a chi non ha voluto amare. Destino a volte ci coglie all'improvviso. Ho visto tante lacrime uscire dal tuo viso. Ho visto sentimenti uscire dal mio cuore. Gli escono lacrime ma il sentimento non lo vuole. Ti ho visto tante volte con la luce e la speranza. Eri tutti i sogni chiusi in una stanza. Dammi tutto quello che non mi hanno fatto avere. Fai star zitta sta gente e me a sedere. Dammi sto mondo senza male. Dammi sta vita che sa amare. Dammi tutto, voglio tutto. Dammi il nuovo che il vecchio lo butto. Dammi sto mondo senza male. Dammi sta vita che sa amare. Dammi tutto, voglio tutto. Dammi il nuovo che il vecchio lo butto. Vivo questa vita con molta ambizione. Le cose non le ottieni se non ti metti in azione. Le cose non le ottieni se ci parli sopra. A forza di parlare mandi a puttane la memoria. Io che non so mai perché credo sempre alle cose. Ho tutti questi sogni che sbocciano come rose. Quanto bene dato alle persone false. Ora non ci sono più perché si sentono sazie. Quanto amore dato ma mai corrisposto. Espongo il mio cuore sempre ad ogni costo. Dammi le cose, dammi una vita seria. Schiarisci sta giornata che sta diventando nera. Dammi tutto il sole sopra questo cielo. Ti canto sta canzone ma non sai ciò che ero. Dammi tutto quello che ha avuto altra gente. Ripagami sta vita e non farla indifferente. Dammi sto mondo senza male. Dammi sta vita che sa amare. Dammi tutto, voglio tutto. Dammi il nuovo che il vecchio lo butto. Dammi sto mondo senza male. Dammi sta vita che sa amare. Dammi tutto, voglio tutto. Dammi il nuovo che il vecchio lo butto.